solo. Lasciami andare, non sono stato mai così male. È troppo tardi per ricominciare. Voglio uscire fuori, voglio gridare. Lasciami andare, non sono stato mai così male. È troppo tardi per ricominciare. Voglio uscire fuori, voglio gridare. Non è questa la libertà che sto cercando. Non è questa la vita che ho sognato tanto. E allora, a braccia aperte, io mi volgo verso te. Non lasciarmi mai da solo, non tenermi più lontano, ma se vuoi tendi una mano anche a me. Non è finita, non è mai finita. Ci sarà sempre un sogno per ricominciare. Questa è la vita, tutta la vita. È solo vita, una follia e via. Non è questa la libertà che sto cercando. Non è questa la vita che ho sognato tanto. E allora, a braccia aperte io mi volgo verso. Non lasciarmi mai da solo, non tenermi più lontano, ma se poi tendi una mano anche a me.